Magnetica proibita, studia la vita con una clownesca via d'uscita. C'è quella elettrica, c'è l'apatica che a casa se ne sta. C'è l'empatica, c'è l'alcolica, c'è quella che beve l'acqua tonica. Ma datemi una vodka. Si pare si fa zappi sui ragazzi davanti a un coffee. Sì, le paparazzi, che vizi. Ci piace un tipo, va via, ok, taxi. Ma sti cazzi tra scazzi e spizzi in cerca di indizi, già sai. Alla d'astuzia, why don't play my life. Good night, baby, go take night. Sorella domina il fuoco che brucia, cambia come il vento cambia. Sorella semina, sorella bagna, stasera in giro con la minigonna. Ma ballare this is my profession. Non si capisce nada, ne ho dada. Comanda la contrada, grada di strada con la sua lambada. In un ping pong di passamano di alcohol. How you old? How you new? Not people, we are